Radio 24 Reportage. È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Sei studente in? Psicologia. Sei preoccupato o sei fiducioso per entrare nel lavoro? No, non sono preoccupato perché so che non ce ne sarà, quindi non c'è da preoccuparsi. Cioè, nel senso, è veramente difficile trovare un'occupazione in futuro, quindi non so di cosa bisogna preoccuparsi. Cioè, io già so che il mio futuro non sarà nel campo della psicologia, ma con la mia laurea dovrò o andare in un altro paese o arrangiarmi a fare altro. Tu di dove sei? De Spagna. Ma studi in Italia? Sì. E vuoi lavorare in Italia? Penso che sì. Cosa pensi del mercato del lavoro italiano? È difficile trovare lavoro? Ti preoccupa? Molto difficile, non c'è lavoro per noi. Che facoltà fai tu? Ingegneria meccanica. No, scienze politiche. Qual è il tuo paese? Croazia. Sicuramente in Italia mi sembra che non posso trovare un lavoro che mi piace o che mi pagano bene. E ingegneria? Forse non avrete difficoltà a trovare lavoro, vi preoccupa? No, ci preoccupa, parecchio. Secondo me non ci sono opportunità. C'è più sfiducia che fiducia. Una persona parte con la passione, però viene scoraggiata a priori. Arrivare a 21 anni e non sapere che fare della vita è brutto. Cioè, non hai un'identità, non sai chi, cioè quasi che non sai chi sei. Ti senti un po' spesato. Siamo all'Università La Sapienza, in via Cesare De Lollis 22. Queste erano le voci di laureandi e laureati. In via Cesare De Lollis 22 c'è il centro per l'impiego, che ha il compito di far incontrare studenti universitari e laureati in cerca di lavoro con chi lo offre, cioè le imprese. Il centro è aperto, gli impiegati sono al loro posto, ma di studenti e laureandi nessuna traccia. Quelli che abbiamo incontrato erano poco più in là, seduti al tavolino del bar, e giurano di non aver mai visto né sentito parlare di centro per l'impiego, eppure l'insegna è ben visibile. Quando sarai grande, allora saprai. Centri per l'impiego ne avete mai sentito parlare? Perché ce n'è uno qua davanti, di centri per l'impiego. Qua c'è proprio un centro per l'impiego, là. Non so, lo utilizzate, conoscete qualcuno che l'ha utilizzato, che ha trovato lavoro attraverso questi centri? Oddio, io no. No. No. No. Là c'è scritto centro per l'impiego. Sì, ma funziona. Io non ci sono mai andato. No. No, chiediamo lumi agli impiegati, ma non vogliono rilasciare interviste. Prendiamo allora appuntamento telefonico con Michele Simone, coordinatore dei centri per l'impiego delle tre università romane, che ci spiega così questa disattenzione da parte degli studenti. La cultura del mercato del lavoro, la cultura dell'iscrizione, dell'esigenza di lavorare viene prorogata. Cioè nessuna lezione all'interno dell'università è incentrata sulla ricerca del lavoro. Cioè viene prorogata, quindi si pensa che ci si laurea e poi si fanno magari anche altri corsi. La vita sì, viene vissuta come se fosse, diciamo, del stop, per capirci, un messaggio codice, cioè faccio quella cosa e poi mi fermo, poi rinizio l'altro. Se si differenziano queste strade, fondamentalmente, sono parallele e non si incontrano, poi alla fine diventa difficile farle incontrare, diventa veramente difficile. Questa è una cultura in parte non soltanto degli studenti, ma questa è una cultura anche dell'università. Devi stare zitto, solo ascoltare, devi leggere più libri che puoi, devi studiare. I giovani sono il futuro, ma il futuro non sembra appartenere ai giovani, scoraggiati e disillusi ancor prima di aver tentato di entrare nel mercato del lavoro. D'altronde i dati parlano chiaro, la disoccupazione giovanile in Italia supera il 30%, quasi un giovane su tre non lavora. Ogni Tanto si discute di come riformare, di come rendere più competitivo il mercato del lavoro, di come favorire l'ingresso dei giovani attraverso politiche attive di orientamento e di formazione, di aumentare la flessibilità in entrata ma anche quella in uscita. Un mercato del lavoro in cui, a detta del Premier Monti, sia più facile assumere ma anche licenziare, abbattendo il muro che divide chi un impiego ce l'ha da chi non ce l'ha, stabilendo ad esempio la possibilità per le aziende in crisi di licenziare. Licenziamenti più facili dunque, ma i giovani cosa ne pensano? Già diciamo che non è molto facile trovare il lavoro, se anche i licenziamenti si rendono ancora più semplici diventa più complicato di quanto già non lo sia adesso. Non è così, licenziamenti più facili mi dovreste spiegare perché dovrebbe favorire i giovani. Hanno posto proprio male. Licenziare sarebbe buono in alcuni ambiti se proprio vogliamo essere sinceri. Nell'istruzione, dove ci stanno le mummie, nelle scuole che camminano per i corridoi, non si sa dove vanno, sì. Mangi pasta forte in casa, in Italia, poi ti entrano i ladri in casa, in Italia, non trovi un lavoro fisso, in Italia. Ma il posto fisso, magari vicino a mamma e papà, non esiste più. È un'illusione, ripetono in coro premier e ministri, ma a questa illusione i giovani pare non vogliano rinunciare. Chi non vorrebbe lavorare, avere il posto vicino casa? È una garanzia, non è noioso. No, anzi, io di no. Cioè, io penso che il posto fisso, sì. Eppure nel resto d'Europa una tutela così forte per il lavoratore non c'è. In caso di licenziamento, infatti, il rimedio che viene principalmente utilizzato non è il reintegro in azienda, ma il risarcimento. E una volta licenziato, però, il lavoratore ha spesso diritto alla formazione e al ricollocamento. Viene insomma aiutato a trovarsi un nuovo lavoro. In Francia, ad esempio, si può essere licenziati sia per ragioni individuali sia economiche, ma l'impresa deve garantire al lavoratore un processo di riconversione o riqualificazione. Nel Regno Unito, invece, l'unico caso in cui è ammesso il reintegro è quello del licenziamento per motivo illecito, come la discriminazione per motivi politici o razziali. In Spagna, nonostante l'alto tasso di disoccupazione, si pensa di estendere la possibilità del licenziamento per giusta causa ad aziende con perdite permanenti, temporanee o congiunturali. Ma per capire meglio come funziona il mercato del lavoro nel resto d'Europa abbiamo sentito Michele Tiraboschi, docente di diritto del lavoro dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Partiamo intanto dall'Italia. Gli ultimi dati Istat mostrano un mercato del lavoro italiano immobile, stanco, incapace soprattutto di sfruttare adeguatamente il potenziale lavorativo, quello dei giovani in particolare, con una disoccupazione sotto i 24 anni che supera il 30%. Sono tutti d'accordo sulla necessità di intervenire, ma in che modo e quali regole secondo lei occorre cambiare? Innanzitutto la disoccupazione giovanile non è una novità degli ultimi mesi e degli ultimi anni, è un problema storico del nostro paese che non si risolve in maniera improvvisata o con ricette miracolose. È chiaro che il nostro è un paese che privilegia coloro che hanno già un'occupazione, che hanno già un lavoro e invece crea delle barriere all'ingresso dei giovani e delle donne in particolare. Le risposte in questo caso devono essere centrate soprattutto sulla formazione, sull'apprendimento, su quella trasmissione di saperi e competenze di cui le imprese hanno bisogno. Nel dibattito sulla riforma del mercato del lavoro italiano vengono citati spesso modelli di altri paesi. Secondo lei quali sono i più interessanti? A livello comparato internazionale sicuramente i paesi che destano maggiore attenzione sono la Germania, l'Austria, la Svizzera, l'Olanda. Sono paesi che hanno tassi di disoccupazione giovanile e tutti gli altri indicatori sui giovani che sono grosso modo analoghi a quelli degli adulti, cioè essere giovane in Germania e in Austria non crea una penalizzazione nell'ingresso al mercato lavoro. Se la disoccupazione tedesca è intorno al 6% come media nazionale, quella dei giovani intorno all'8%. Questo perché? Perché hanno uno strumento potentissimo che è l'apprendistato, un apprendistato molto diverso dal nostro, non è un contratto temporaneo, un contratto flessibile atipico, un contratto con un fortissimo contenuto formativo che serve a orientare i giovani verso percorsi educativi e formativi coerenti con le esigenze del mercato del lavoro. Questo abbassa moltissimo il divario, il disallineamento tra le esigenze della domanda e quelle dell'offerta del mercato del lavoro. Purtroppo il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è una spiccata autoreferenzialità del nostro sistema educativo formativo, allontanano le imprese dai giovani. Ma il diritto al reintegro esiste in molti altri paesi europei? Esiste in pochi altri paesi europei, per esempio esiste in Germania come reintegro che non è obbligatorio ma è che è affidato alle decisioni caso per caso della magistratura. Ma ci sono paesi in cui è obbligatorio il reintegro, altri paesi europei in cui è obbligatorio? No, una formula analoga a quella italiana no, diciamo che siamo un sistema più rigido assieme al Portogallo e quindi è un'area su cui lavorare, basta però non confondere i piani perché non è questo il tema che vincola l'assunzione dei giovani nel nostro paese. La vera leva per i giovani è la formazione, l'educazione, la motivazione, il miglior raccordo tra domanda e offerta di lavoro. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.